Pane, burro, rock and roll. Benvenuti amici, benvenute. Sono le 7. Cos'è sta roba? Sono le 7:30 minuti primi. Che ora è? 7:30. Che ora è? 7:31. Che ora è? 7:31 minuti. Che ora è? A me sto jingle di Bennato mi fa venire i 5 minuti. Che ora è? 7:31. 31 minuti alle 7. Ah, fanculo, va. C'è un amico che vuol darci un detto al giorno. Ottima idea, eh? Fallo. Un detto al giorno leva lo psicologo di turno. Quello di oggi. Non c'è giorno più sprecato di quello in cui non abbiamo riso. Detto questo, buona giornata e al prossimo detto. Grazie. Novembre, stringete i denti, tra poco ci si tuffa in uno splendido weekend di rock and roll. Un fine settimana tutto di rock, pane, burro e schiantos. Per tirare l'acqua al mio mulino. Ha fatto benissimo. Andiamo a ricordare i compleanni del 16 di novembre? Naturalmente no. Inizio io. Nasceva nel 1892 un mito della velocità italiana, Tazio Nuvolari, pilota automobilistico, moriva nel 53. Un anno prima che nascesse lei, tra l'altro. 1922, José Saramago, scrittore portoghese e premio Nobel. Saramago o Sarastrego? Chi può dirlo? Pessima battuta da cancellare. Non dice niente che è un premio Nobel. Ah, che rabbia, che nervi. Speravo non lo notasse. Medaglia anche a me. Andiamo al 1930 e facciamo tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Riina, criminale italiano. Quel perfido capomafia, quel... quel simpatico nonnetto alla sbarra che ne ha fatte di cotte e di crude. Speriamo ci resti, andiamo nel 1943 quando nasceva Michael Cimino, regista americano. Grande gangster anche lui. Dice? Beh, tutti gli americani sono un po' gangster, no? Non facciamo così, però... qualunquisti, la prego. Ha un nome e cognome da gangster, un po' sì, no? Sì, sì, no, Cimino. Michael Cimino. Lo ricordiamo. Banda Cimino. Per la regia del Cacciatore. Il Cacciatore. Mitico... No, li dico io, stia tranquillo. I Cancelli del Cielo. The Heaven's Gate. Sì, e Verso il Sole. Sankasher, va bene. È andata anche ai compleanni del giorno. Allegri! Domani è sabato, dopodomani domenica! Sì, e dopo lunedì. Vabbè, ci fermiamo alla domenica, è vero, stavolta non guardiamo così avanti. Fino alla domenica. Fino alla domenica. Ok. E beh, che c'è? Autista di Firenze, smettila di scrivere sms e guida. Sennò un giorno o l'altro va a finire male, ok? You know where you are. You are in the jungle, baby. You gonna die. Do, do, do, do, do. Da quando ci siamo inventati sta stronzata del rock con la bocca, Posso anche farlo durante i pezzi, perché è filologicamente preciso con la trasmissione. Benvenuti nella giungla, Guns N' Roses. Tra 7:41 minuti primi. Amici e amiche là fuori, segnatevi questo numero di SMS: 335-100-77-77. Abbiamo bisogno di voi, è ufficiale, dai, su. Roberto Fricantoni è messo come è messo. Sarà anche l'età, tanto non mi sente di là in redazione. Spadino, non ve lo sto nemmeno a descrivere. Come sto messo io, si sente benissimo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Cosa fate? Chi siete? Dove andate? Siete rock? Non siete rock? Che gruppo d'ascolto appartenete? È dura essere rock in questo mondo? I vostri figli vi danno soddisfazioni? Non ve le danno? Avete donne o maschi nudi da farci vedere? Si raccatta il raccattabile qui. Si piglia tutto, eh? Un po' di messaggi, via. Ieri sera mi sono vista tutte le foto della festa di ottobre. Tra l'altro finalmente patentata. Sei proprio un omino carino. Direi il migliore. Del resto, la nicchia vincerà. Aiuto! Ho degli gnomi che si appendono alle palpebre e me le chiudono. Ma il rock ructato va bene? A volte mi sento in dovere di consigliarvi di ascoltare un'altra radio. Perché non fa benissimo pane, burro e rock and roll. Ariele, mi fai una strombazzata per la mia ragazza che oggi ha un esame per la pressione, ma soprattutto ha riconosciuto i Black Sabbath. Topone. Complimenti, amica! Iniziare a riconoscere i Black Sabbath è già qualcosa, eh? Domanda shakespeariana. Basta fare domande sul rock con la bocca, per favore. Se gli strumenti si suonano con la bocca, un cantante come canta? Ma dai, iscrivetevi al servizio e basta, non fate gli spiritosi a tutti i costi come fa Frick. Per colpa vostra stavo per perdere il treno. Oh, ci spiace Erika da Genova. Io appartengo al gruppo d'ascolto del virus intestinale. Viva, buona giornata da Nati. Ultima mail, dai, firmata Gual. Caro Ariele, sono un tuo assiduo ascoltatore mattutino, perennemente nel traffico. Oggi ho fatto un giro sul sito di Rock FM e ho visto le tue foto. Cioè, virgola, mesi che ti ascolto pensandoti con i capelli lunghi, sbarbato e con lo sguardo da tipo eterno ribello e invece ti becco che mi assomigli. Che bello vedere che ci sono anche rocker strani come me. Guarda che quelle foto non sono io, è la mia controfigura. Perché io ho una controfigura, non voglio far vedere come sono fatto. Io sono un incrocio tra Luferrigno, Van Damme e Rocco Siffredi. E ho la lingua di Gene Simmons. Ah, faccio paura, eh. Sì. Ehi, Divo, girl, you won. She sings from song. Finalmente eccoci arrivati all'angolo della cultura. Potremmo... Lo spazio, no, non mi interrompi, io so che lei è titubante, anzi, lei, Ariel, è contrario. Sì, assolutamente sì. Potremmo farne dica, a meno perché? Di tutta sta cultura Rock FM. Siamo dei rocker, stiamo nella nostra beata ignoranza. Non è vero. Pane, burro e rock and roll vuole sfatare questo mito. Quest'andare a braccetto tra il rock e l'ignoranza. Il rock ha una sua cultura. Sento puzza di parole ribelli, le parole rock, gli idiomi sfrenati. Lei dice bene, sto per proporvi la parola ribelle di oggi. Non che vedo veramente l'ora, ce lo dica, la prego. Ranfio. Ranfio? Sì. Ha un suo senso. Ranfio, sì. Va bene. Parola in uso dal 1891, pensi, le so dire perfino l'anno e l'età delle parole. Incredibile. Da ranfia, che significa artiglio, granfia, un po' come raffio, sa cos'è raffio? No. Dal tedesco, da una parola tedesca in uso nel 1313, uncino di ferro o arnese a più uncini. Ho capito, ma cos'è un ranfio? Un ranfio è un uncino usato per il lavoro, un rampino di lavoro usato per fare presa. Che in qualità di rampino, oggetto è rock. È rock, certamente, sì. Certamente. E non come un'altra parola che le dirò alla prossima puntata. Non vedo veramente l'ora. Oggi abbiamo scoperto cos'è il ranfio, avrei tanto voluto saperlo e finalmente lo so. Grazie. È stato un piacere. Inside me, if the moon and stars should fall, they'd be easy to replace. I would lift you up to heaven, and you would take their place. When I saw red, when I opened up the door, I saw red. My heart just spilled onto the floor. All written and I closed the door. I so red, ci vedo rosso, i Warrant alle 7:52 minuti primi. Non risponderò alla provocazione di questo SMS che dice i Divo cosa c'entrano col rock. No, no, non voglio rispondere. Caro pianist da Milano, ti tengo d'occhio, ricordatelo. Invece voglio approfondire un altro SMS. Andiamo finalmente a parlare di catechizzazione. Mi è venuto giusto? Direi di sì. Mi scrive il patentato 332. Sono riuscito a far passare mia sorella da Radio 105 a Rock FM. Virgola, la nicchia vincerà. Buona giornata, Tommy. Ciao, Ariel. Uno dei più giovani per adesso dei radioascoltatori che abbiamo mandato in onda, uno studente. 17 anni, oh. Andante a scuola. Andante a scuola, a parte Francesca, che vabbè, quello è un caso a parte. Però tu sei anche una bambina, era già venuta in onda. Però finalmente uno studente. Oh, Milano, giusto? Esatto. 17 anni. Sai che io mi sento 17 anni, Tommy? È una bella età, a parte la scuola è una bella età. Sì. Senti, com'è questa storia? Come, allora, siamo curiosi di scoprire come hai fatto. Tua sorella è più grande di te? Esatto. 19 anni, dicevi. 19. Come si chiama? La salutiamo, via. Giulia. Bella Giulia, ascoltava 105. Ascoltava 105. Ascoltava, stiamo parlando al passato perché adesso ascolta Rock FM. Assolutamente sì. Bravo Tommy, tu sei bravo, come hai fatto? Sentiamo un po'. È stata una guerra psicologica, praticamente ogni volta che sentivo Radio 105 in giro per casa, sì, cominciavo a insultare profondamente qualunque cosa passassero, qualunque persona parlasse. Sì, ti lamenti sempre, ma che schifo è questo? Che canzone è questa? Che schifo è? Ma come parla questo qui? Roba così? Tipo. Anche peggio. Anche peggio, anche peggio. Non dirlo in radio allora, per favore. Però ci siamo capiti. Esatto. È una battaglia psicologica, quindi. Mm-hmm. E poi piazzando che femma palla. Che anche sempre e comunque. Sì, sì, controbatti, capito? Esatto. E dicendo, senti che bella questa canzone. Hai sentito che bello? Questo è che parla intelligente, si sente. Roba così. Perché è importante per te sapere che anche tua sorella ascolta Rock FM. Ma lo fai più per amore familiare, nel senso che vuoi che lei ascolti Rock FM, o lo fai più per amore di Rock FM che vuoi che la nicchia vinca? È complicato. Rock FM, assolutamente. È solo per Rock FM, di tua sorella non te ne frega niente. Ma l'importante è Rock FM, dai. L'importante. Diciamola. Senti, patentato 332, dove sei riuscito a guadagnarti la tua patente? All'Alcatraz, alla vostra festa. Alla festa di Milano. Mm-mm. Senti un po', buona scuola, oggi c'è qualcosa di particolare? Hai bisogno di strombazzate? Ho bisogno di una strombazzata. Oh, eccola qui, ma ci sono così, qualcosa di particolare, compiti in classe? Versioni latino. Aia, yeah. Che palle. Ma c'è ancora il dizionario IL? Questa mi mancava. Non conosci il dizionario IL? No. Quello gigante? Ce l'avevamo. Ah. Sai, perché io non ho proprio 17 anni, però vabbè, questo è un altro problema e ce ne occuperemo in un altro momento. Tommy, buona scuola e senti, ma Giulia cosa sta facendo adesso? È lì? No, dorme. Perché oggi si sveglia tardi. Ma tardi quanto? Tardi 8:30, 9. Ascolta la fine. Ma senti, ma le dessimo il buongiorno così in diretta, dici che si arrabbia un'ora prima? Sì, se vuoi che non riesco più ad ascoltare la radio perché mi strappa i timpani. Aspetta, fammici pensare un attimo. Preferisco che Giulia ascolta Rock FM o che la svegliamo con una strombazzata al telefono? La svegliamo con una strombazzata al telefono? No, dai, va bene Tommy. Buona giornata. Ciao, a presto. Ciao. Ciao. Perdonatemi, a volte esagero. Me ne accorgo da solo. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. When you're strange.